lascia che io parli. Sacrilego, sacrilego, ministro, se ben fatto in clemente a morte indegna, come rea mi destina. Vissime moro, innocente, son del sangue stuardo, e son, e son, regina. Perché, per darmi i lumi, si amerò i tanti giorni, affetto ancora da mirar l'ultimo. Aversi al cielo, saprò me senza velo, alla divina serarli. Ferma, ferma, lascia, lascia che io parli. Ma, che dirò? Purtroppo oggi fa vela a mia prole innocenza. E di si rea sentenza a Dio sorella. Vili pesa innocenza, sulla regina a te salvar non dici, quel litiga fa guerra. Oh, Impara